Barbarina, cos'hai? L'ho perduta, cugino. Cosa? Cosa? La spilla che a me tiene il padrone per cara Susanna. A Susanna, la spilla. È così tenerella il mestiero, già sai, di far tutto si ben quel che tu fai. Così vai meco in collera. E non vedi ch'io scherzo? Osserva, questa è la spilla che il conte da recare ti diede alla Susanna e servia da sigillo a un bigliettino. Vedi ch'io sono istrutto. E perché il tiede a me quando sai tutto? Aveva gusto d'udir come il padrone ti die la commissione. Che miracoli! Tieni, fanciulla, reca questa spilla alla bella Susanna e dille, questo è il sigillo dei pini. Dei pini? E perché mi soggiunse? Guarda che alcune vita, ma tu già tacerai. Sicuramente. A che c'è niente preme? Oh, niente, niente. Addio, mio bel cugino, botta Susanna, e poi